Intanto la cosa più importante di questo rapporto oggi, anzi di questa campagna Apprezzane che è stata lanciata oggi, è che i protagonisti sono i ragazzi del movimento Sottosopra per Save the Children. Sono più di 400 ragazzi tra i 14 e i 22 anni in tutta Italia che sono impegnati in azioni di cittadinanza attive, di sensibilizzazione sui diritti che li riguardano nei più diversi contesti. In questo caso parliamo della discriminazione, che è una realtà, come dimostra questo sondaggio che loro hanno realizzato con più di 2000 studenti delle scuole superiori, quindi come età stiamo parlando dei 14-19 anni, anche qui in tutta Italia, cercando di capire quanto si viene discriminati, come si viene discriminati e in base a cosa si viene discriminati. Ecco, purtroppo quello che è emerso è che più di 3 studenti su 5 dichiarano di essere stati vittime di discriminazione. Ecco, ma la discriminazione in base a uno stereotipo è soltanto il punto di partenza, perché poi concretamente i ragazzi ci dicono con le loro parole che dopo una discriminazione ci sono le azioni conseguenti, che sono l'isolamento, sono in molti casi anche le violenze, sono atti di bullismo, sono conseguenze pesanti che tolgono il fiato, che impediscono di vivere e che possono avere anche conseguenze gravissime. Questo ce lo dicono i ragazzi con la loro voce. Considerare in un tale modo le persone porta ad avere questo giudizio, insomma, da guardare all'alto in basso le persone. No, in realtà proprio il senso di questa campagna, che tra l'altro potete trovare e tutti gli ascoltatori possono trovare sui social, in particolare l'azione partirà da domani, però già oggi si può trovare sui vari siti di informazione questa campagna, con il video che i ragazzi hanno fatto, ed è come simbolo al codice a barre. Ecco, i ragazzi, purtroppo emerge, gli adolescenti tra di loro si attribuiscono questi stereotipi, che sono omosessuale, sono cicciona, sono straniero quindi criminale, sono sfigato, no? Sono questi gli stereotipi che poi fanno la differenza, e l'invito che i ragazzi fanno in questa mobilitazione è proprio strappare queste etichette, che sono come un codice a barre, no? E tutto si ferma lì, non si va più oltre quello. La loro proposta è: spezziamo le etichette, spezziamo queste etichette, usciamo da queste scatole in cui noi stessi a vicenda ci rinchiudiamo. Quindi questo è anche un appello. Vedrete poi che sui social loro chiederanno a tutti da partire da domani, che è la giornata internazionale contro le discriminazioni, di farsi un selfie con un codice a barre disegnato sulla guancia e postarlo sui propri social. L'invito naturalmente vale per tutti, vale per i ragazzi, vale per gli insegnanti, vale per i genitori, perché il punto è che dobbiamo coinvolgersi tutti. Loro ci dicono, proprio i ragazzi, che un ragazzo su 3 che ha subito discriminazione e gli atti conseguenti di violenza, di bullismo, non ne ha parlato con nessuno, cioè non ne ha parlato con i genitori, non ne ha parlato con gli amici, tantomeno con gli insegnanti, e queste discriminazioni avvengono soprattutto a scuola, e quindi di fatto è rimasto solo, si è vissuto da solo questa cosa. Il punto è proprio questo: uscire da questa dimensione. Naturalmente sappiamo che una delle tante dimensioni e stereotipi di cui parliamo in questo periodo è quello anche legato al colore della pelle, che in effetti i ragazzi identificano come una delle 3 principali cause di stereotipo, no? Che sono l'orientamento sessuale, l'obesità e il colore della pelle. Ecco, andare oltre questo stereotipo è fondamentale che i ragazzi lo facciano insieme, tra pari. Quindi, ecco, non è tanto un discorso, naturalmente ci deve essere il coinvolgimento degli educatori, degli adulti, dei genitori, ma è fondamentale che si mobilitino i ragazzi stessi. Proprio i ragazzi di Sottosopra recentemente hanno fatto un progetto molto interessante a Torino, che si chiama Together. L'hanno fatto insieme ad altre associazioni, insieme a Under Radio, che è la radio contro la discriminazione di Save the Children delle scuole, e con il Centro Civico Zero di Torino per i minori stranieri non accompagnati. Hanno fatto un laboratorio rap con Zuli, che è un rapper di Torino, hanno costruito un brano che si intitola Imparando ad essere grande, che potete trovare sulla rete, e che dice esattamente questo: affrontare, superare la discriminazione, soprattutto quando si arriva da soli, adolescenti da un paese lontano, è fondamentale poterlo fare insieme con i propri coetanei, è fondamentale riconoscere che è un problema di tutti gli adolescenti quello di affrontare la vita, di farlo non da soli, trovare il proprio spazio, il proprio posto e vedere rispettati i propri diritti. A questo ultimo proposito ti volevo chiedere: ma cosa potrebbe fare invece un adulto per migliorare la situazione? Ma quello che gli adulti possono fare, diciamo la nostra esperienza sul campo, è l'apertura, è il dialogo e soprattutto è l'ascolto, perché è proprio per questo è importante che oggi non è solo Save the Children a mettere davanti agli occhi di tutti questa realtà alla vigilia di questa giornata, ma sono i ragazzi stessi, perché il punto è proprio questo, è calarsi nella realtà dei ragazzi, in quello che davvero vivono, in quelle che sono le loro reali esigenze nel loro contesto. Significa ascoltare, significa cogliere i segnali del disagio e significa creare una rete. La rete è fatta da tutti gli adulti che sono interni ai ragazzi. Noi come Save the Children sottolineiamo con molta forza questo fatto, che rispetto alla privazione dei diritti dei minori, rispetto alla costruzione del futuro, rispetto a tutti i problemi che possono avere nei quartieri più disagiati delle città, nel contesto scolastico, in qualunque ambiente, se sono a rischio di abbandono scolastico, se sono in un'area ad alta criminalità, tutti questi rischi possono essere affrontati soltanto da una comunità educante. La comunità educante è quella in cui tutti gli adulti di riferimento, quindi genitori, educatori, gli insegnanti, i medici, tutti quelli che in qualche maniera hanno contatto con la vita dei bambini e dei ragazzi, stanno attenti e sono preparati a cogliere i segnali di disagio, di isolamento, di violazione dei diritti e a fare in modo che questi possano essere espressi e che possano essere affrontati. Ecco, la prima condizione è quello di esprimere un disagio, perché questo disagio possa emergere e possa in qualche maniera essere affrontato.